In questo senso ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? C'è il mio profilo Facebook, Valerio Votier. E allora intanto ricordiamo la presentazione del documentario Il Soufira d'Angile del collettivo René Votier a Roma, la sala convegni della Confederazione Cobas, venerdì 14 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento a Valerio Maggi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie.